Esortazione a liberare la Italia da barbari. Non si debba dunque lasciare passare questa occasione, a ciò che la Italia, dopo tanto tempo, vegga uno suo Redentore. Né posso esprimere con quale amore fussi ricevuto in tutte quelle province che hanno patito per queste illuvioni esterne. Con che sete di vendetta, con che ostinata fede, con che pietà, con che lacrime. Quali porte se li serrerebbano? Quali popoli li negherebbero l'obbedienza? Quale invidia se li opporrebbe? Quale italiano li negherebbe l'ossequio? A ognuno puzza questo barbaro dominio. Niccolò Machiavelli.